si passa al satellite. Quando passa al satellite, allora ovviamente il drone inizia a autopilotarsi da solo, sa dove deve andare e sa quando deve anche aprire il fuoco. È per quello che prima di aprire il fuoco ci dobbiamo pensare due volte, perché lui deve anche fare i calcoli tra comando e posizione del veicolo da colpire, eccetera, se sono bersagli in movimento. Quindi non è così semplice come certi giornalisti fanno e dicono. La cosa in realtà è molto più complicata, soprattutto per applicazioni di quel tipo in cui si chiede di avere determinate caratteristiche di comando, ecco. Sì, no, però d'accordo, ma infatti queste cose sono interfacciate, come hai detto tu, col satellite. La guida autonoma, ripeto, dovrebbe avere la posizione esatta al millimetro della macchina, perché se stai andando a una certa velocità, una cosa è andare a 10 km orari, un'altra cosa a 100 km orari, il tempo, che lo spazio che percorri è diverso da quello che puoi percorrere andando a 10 km orari, per cui dovrebbe avere dei sensori, è tutto di posizione della macchina, all'interno della macchina, eccetera, che inviano la tua posizione al satellite. Dopodiché ci sono i sensori fissi a terra che calcola tutte le informazioni, poi ci sono i segnali e qualunque cosa che li può essere informativo, e vengono tutti elaborati dal computer e fanno questo tipo di lavoro. Però quando le latenze sono basse, perché cioè, i sensori ce li hai vicini, non devono fare grosse distanze, come per dire lo potevano fare con l'altro sistema, era un po' più complicato. Adesso i ripetitori sono uno attaccato all'altro, in distanza visiva, nel senso si vedono molto vicine, per cui i tempi sono un pochettino più bassi. Più hanno questo sistema nuovo che hanno adottato, completamente migliorato rispetto a quello che avevano prima, per cui riescono a dire, anche se devo dire sono successi degli incidenti, perché basta che si rompa un anello dalla catena, lì succede, qualcuno si è ammazzato, qualcuno ha avuto degli incidenti, eccetera eccetera, con questo tipo di macchine. Piano piano, come tutte le cose, verranno migliorate. Sì, tutto è migliorabile, si può migliorare, però per quello che riguarda i punti fermi della fisica, di lì c'è poco da fare. Cosa c'è ad esempio più importante dei collegamenti, ad esempio nello spazio? Eppure si parla addirittura di minuti, di in alcuni casi, secondo le distanze, anche di ore. Quindi da lì solo vedi che nonostante la velocità della luce ci siano queste limitazioni. Ed è così. E di lì risorse altro che i 5G sono, perché quando parliamo di impresa spaziale anche le cifre in gioco sono molto più importanti, perlomeno come studi e come ricerca. Sono limitazioni che non ci scrollano tanto facilmente dalle spalle. E poi tieni presente che tutte queste cose aumentano la famosa vulnerabilità, perché anche su quel campo bisogna stare attenti, perché nell'informatica basta un buco e si infili qualcuno. Già l'ho visto anche oggi, credo che ci sia stato un attacco non ricordo dove, porca miseria, l'ha detto il telegiornale e mi è sfuggito. Comunque c'è stato il solito attacco informatico e quelli di lì se ne vogliono. Quelli che veniamo a sapere, tra l'altro, perché quando sono cose più importanti non ce ne dicono. Mi hanno detto quello del coso della regione Lazio, quando c'è stato quel problema dei vaccini, eccetera, eccetera. Ma le cose gravi, quando entrano in cose militari, che entrano lo stesso, quando ci sono questi sabotaggi, non sappiamo niente e non ce ne diranno mai. No, come hai detto tu, certo, se parliamo di lunghe distanze, tieni presente, la velocità della luce, lo sai quanto va, 300.000 km al secondo, la Terra e la Luna sono circa quella distanza e ci impiega un secondo arrivare. La navicella, quella che stava navigando da sino a Marte, quella l'ultima che hanno mandato, ci impiega 3 minuti arrivare la risposta, cioè io gli dico ciao e lui gli arriva dopo 3 minuti, figurati quando stiamo parlando di distanze interstellari, stiamo parlando però di cose completamente diverse. In qua sono più vicine, diciamo, alla Terra, i tempi per quello sono diversi, perché stiamo parlando di distanze molto molto più breve. Ok, di nuovo a te, Gianfranco. Sì, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti. No, adesso a quest'ora è scattata questa strana propagazione QRM, chiamano come voi, sotto forma di alternanza. Eppure qua, qualora non entra in funzione niente, mi sa che diavolo. basta. Visto, basta, a volte basta qualche piccolo rumore per bloccare anche le cose più tecnologiche. Sì, naturalmente. No, ma lui, se si potesse tornare indietro, io parlo negli anni 80, non dico più, ma prima, negli anni 80, il campo elettromagnetico che c'era negli anni 80 rispetto adesso, io penso sia migliaia di volte più forte quello che abbiamo adesso. Ma io me ne accorgo dalle radio, cioè prima con una radiolina, parliamo radio private, con pochi watt facevi strada. Io mi ricordo il primo trasmettitore che ci avevamo, quelli scatola di montaggio con 2 watt, ci sentivamo sino alla periferia di Sassari. Cacca, adesso ci vogliono potenze di kilowatt per farti sentire. C'è un inquinamento elettromagnetico spaventoso, c'è una cosa, se non c'hai kilowatt non va da nessuna parte. Beh, oddio, dipende, è tutto in funzione di cosa devi fare e di quanto lo devi fare, ecco. Anche di lì c'è questa cosa. Il problema è che ci stiamo sempre più viziando. Se a noi dovesse capitare un incidente informatico sulla corrente elettrica, sulle stazioni di distribuzione e così via, noi siamo bloccati. Ai tempi di Napoleone, per dire, per non andare troppo lontano, questi problemi neanche c'erano, perché tutte quelle cose erano fatte da accessori che sicuramente funzionavano per l'epoca in cui erano. E adesso ci stiamo, secondo me, anche sotto certi aspetti ci stiamo complicando la vita, prima era più semplice e forse richiedeva anche meno impegno sotto tanti aspetti, perché la domanda che si dovrebbe fare la gente non è tanto quante cose riesce a fare, ma se alla fine è poi felice. E io penso che nel mondo occidentale comunque dire di essere felici può essere anche una parola molto grossa, ecco. No, ma lo sai cos'è la cosa? Che la gente non se ne rende conto. Noi non abbiamo un'alternativa alla rete. Cioè, se si blocca la rete, muriamo tutti, non facciamo fine. Si blocca, si ferma il mondo, ritorniamo alla preistoria. La gente non se ne rende conto di questo. E qualche prova l'abbiamo avuta l'altro giorno, anche se mi dirai non è una cosa essenziale. Internet, parliamo Facebook, WhatsApp, Messenger, non è una cosa nel senso indispensabile. Però tu fai conto che tu adesso devi andare a fare un'operazione in banca, per fare un esempio, oppure una centrale elettrica, come hai detto tu, si blocca la rete, non parliamo dell'energia, la rete che comanda tutti questi impianti di distribuzione, noi siamo morti, cioè non abbiamo un'alternativa. Forse a livello militare esistono le alternative, ma a livello civile non c'è un'alternativa. Gli ospedali magari hanno la possibilità con i gruppi elettrogeni funzionare, eccetera, c'hanno delle linee di servizio, parliamo con i grandi, però tu a casa cosa fai? Se ti manca la distribuzione dell'energia elettrica, tu non puoi fare niente. O ti metti a cucinare e mangi solo qualcosa, tutto il resto sei isolato. La moneta, se c'hai carta moneta, forse riesci a comprarti qualcosa se te l'accettano. Se c'hai la carta di credito non puoi fare niente. Appunto, quello che dicevo. Ma ripeto, il problema più grande è poi quando ti fanno la domanda, ma in tutta questa cosa tu sei felice? Punto di domanda. La risposta non è così semplice, perché poi ti accorgi che in ogni caso per fare una visita devi aspettare settimane, per fare quell'altro devi... È una volta magari queste cose neanche te le facevano, ecco. Tutto lì, non c'avevi tutti questi problemi. Assolutamente d'accordo, ma adesso è diventato indispensabile, non utile. Prima poteva essere utile 20 anni fa il cellulare, adesso è indispensabile. Tu senza cellulare ti trovi spaesato. Se ti manca la linea, guarda, oggi non funziona, ti trovi in difficoltà, sembra spaesato. Non abbiamo un'alternativa noi, cioè, tra l'altro stanno scomparendo anche le linee fisse, perché uno dice c'ho la linea fissa, adesso cioè, ti senti spaesato. Io sono il primo a dirlo, non è che lo posso negare, e mi fa tanto paura a me questa cosa qua. Sì, a me la tecnologia piace moltissimo, la applico, insomma, utilizzo i sistemi più moderni, sempre, eccetera, eccetera. E poi la riflessione, che tra l'altro ci stavamo facendo anche stamattina questo ragionamento, tutta gente super tecnologica, programmatori e così via, però il discorso è tanta fatica, tanta cosa, ma poi siamo felici, quello là c'ha problemi con la moglie, quell'altro a fine mese non sa perché il figlio vuole un nuovo computer e costa caro, l'altro così, insomma tutta una marea di input, cioè abbiamo tanti di quegli input che una volta non c'erano, una volta dovevi mandare a crescere i figli, insegnarle un lavoro e poi sposarsi e andare avanti. Adesso abbiamo anche il problema che siamo in troppi sul pianeta, quindi non c'è più spazio, e tra l'altro siamo anche troppo primitivi per poter trovare una soluzione. Questo è il paradosso di tante cose, e quindi purtroppo è così. Io lo so, ma non c'è via di uscita, il problema non c'è una via di uscita. Tu non so se ti capita di guardare quei film tipo quelli post-atomici, quelli Mad Max o cosa del genere, Waterworld, non so se li hai mai visti quei film lì. Prova a immaginarti il mondo come potrebbe essere. Beh, qualcosa del genere è capitato in Afghanistan, prima le hanno dato hanno conosciuto la barbarie, poi le hanno dato la possibilità di avere qualcosa in più, quindi di poter andare all'università, di poter conoscere ragazze, fare una vita diciamo tra virgolette occidentale. Adesso di nuovo sono tornate alla barbarie, e quindi non escludo che anche ne possiamo capitare una sacca cosa, ecco. Sì, no, una cosa così, come hai detto tu, basta che tu tocchi un anello della catena, cioè tocchi la rete, tocchi la distribuzione della corrente elettrica, blocchi tutto, entra un hacker e dice, beh, schiaccio questo pulsante e blocco tutte le linee ferroviarie d'Italia, o cosa posso dire, la distribuzione dell'energia elettrica di tutta l'Italia. E magari in qualche ora ti fa un danno, fai conto se questa cosa la fanno prolungata, per dire, fanno, mettono in corto, fanno qualche problema. Sì, a volte penso agli antichi, no? Quante conquiste che hanno fatto, quante cose che hanno fatto, e non avevamo tutti questi problemi di... Noi siamo sempre in movimento, anche quando dormiamo non riusciamo a dormire bene perché domani ti devi ricordare di fare quello, poi di fare anche quell'altro, poi di fare... Eppure lavoravano molto più di noi nei tempi antichi, però era una vita più semplice, ecco. Non era così incasinata, piena di tanta gente, piena di tanti problemi, ognuno c'è il suo, di tante cose. Era più umana, ecco. Ha detto bene, era più umana. Adesso se abbiamo delle macchine, siamo degli automi, troppe cose fatte in poco tempo. E alla fine io penso ai tempi di mio padre, non se ne sentiva di gente stressata, di gente stanca sì, ma stressata, depressa, ansiosa. Penso che ai tempi di mio padre era raro una cosa, ma adesso è una cosa normale, tutti lo stressano, mamma mia, oggi latte, cioè lavori molto con la testa, prima si lavorava più con le mani, adesso si lavora con la testa. Spesso si sbaglia, poi si creano delle convinzioni molto pericolose, come quella che capita a molti, che poi genera incidenti, tu quella cosa la puoi fare, tanto non capitare a me, questa specie di sbagliata sensazione dell'invulnerabilità. Però Murphy è sempre lì dietro l'angolo, pronto a colpire, e non deve fregare niente delle tue certezze. Aspetta, lasciamo un attimino di bianco, qualcuno che vuole entrare avanti. Chi è avanti? Intanto c'è questa portantina. Avanti se vuole entrare senza vergogna. Adesso, qua è arrivata quasi 9:20, non so se l'hai sentita Gianfranco. No, non a parte no. Noi siamo che splatter, qualcosa del genere. No, ho provato anche poco fa a spostarmi, è arrivato un colpo comunque PTT, e tra l'altro mi sembra un segnale conosciuto. Vabbè, vuol dire che sta tentando di entrare, cioè, forse anche qualche problema microfonico. Quindi a volte capita anche quello. Ah, io sono sicurissimo che c'è tanta gente che ascolta, poi magari qualcuno ascolta, non è mai entrato, perché ne ho conosciuto una persona carissima, e lui ascolta e basta, dice molte volte vi sento la sera, è capitato tante volte, accendo il fratello, perché non mi interessa, dice così, se l'ascolto come può essere una conversazione alla radio, diciamo, sentire una stazione radio, dice così, magari se c'è qualche argomento che mi interessa mi connetto, dice no, accendo e sento. Poi ci sono quelli che forse sono timidi, non lo so, che come si chiama, micropanico si chiamava così. Sì, all'epoca sicuramente era così, anche perché eravamo giovani tra l'altro. Ma guarda, ti dirò, a me oramai sto cercando di distaccarmi il più possibile dalla televisione in termini di trasmissioni che dicono sempre la stessa cosa, ti bombardano, oggi è successo quello e l'altro trasmette che è successo quello, e poi i pareri di questi filosofi che sembra che sappiano tutto, e poi magari sono dei semplici scrittori o altro, però non hanno dei basamenti proprio scientifici di certe cose. Insomma, le notizie adesso sembra che ti vengano pompate a tutto andare, ci arrivano tanti input che è difficile tenere dietro, quindi spegnere tutto un attimino, farsi quattro chiacchierate così, al calduccio, diciamoci al calduccio, ma è come essere dentro un bar, ogni tanto andare a prendersi una bibita, un bicchiere d'acqua e poi tornare, cioè è più umano, quindi c'è un senso più di poter riallacciare quei rapporti umani con gli altri che questi talk show eccetera distruggono, perché poi vedi famiglie che litigano, cose allucinanti, estranee anche se vogliamo anche alla nostra cultura, perché abbiamo mille difetti gli italiani, però almeno un certo concetto di famiglia c'è rimasto. Sì, quello è vero, forse siamo una delle poche nazioni al mondo che c'è ancora la famiglia, il discorso della famiglia, anche se devo dire lo stiamo perdendo tantissimo, perché basta vedere quanti matrimoni, che per dire prima non succedeva niente nei tempi di mio padre, adesso basta un bisticcio, una cosa, subito si separano, perché uno ha visto una cosa magari diversa da quella che poteva vedere o immaginare e si separa. Nei tempi di mio padre penso che si bisticciasse comunque, però c'era più tolleranza, più rispetto e più trovare accordi, dai, compromessi. Adesso invece è campo lo scatano, ma vedono gente che poi hanno il vizio di sposarsi subito, giovani, vedo tante volte, dico ma perché ti sposi, aspetta, vedi un po', provate a convivere, ma gente che conosco bene, poi dopo un po', io non faccio nome e cognome perché non mi va di farli, ma persone molto a me vicine, cacchio, questo si è sposato, e vai, ma non è quello, detto mica il prezzo, mi dicono no, ci sposiamo, sono andati a viaggiare di notte, separati, subito immediatamente divorziati, deve essere chissà cosa è successo, nemmeno un giorno di notte di casa hanno fatto, sono rientrati e erano già sulle pratiche per il divorzio. Quelle cose le abbiamo viste tutte, ma il grave è che si verificano anche in tarda età, perché uno su molti vorrebbe dire ma ascolta, vi siete sopportati per 50 anni e fate 51, 52 e 53 anni, non di colpo a fare queste cose assurde. Anche lì sono cose, la fretta, siamo viziati, ecco, la parola giusta è quella, tutti, senza anch'io, siamo troppo viziati, quindi non riusciamo a valutare le cose per quello che sono. Sì, ma un colpo grosso l'ha dato anche internet, perché le donne prima erano più tranquille, nel senso che era la madre di famiglia, gestiva tutto quanto lei, la famiglia, adesso sono diventate, no, io parlo, non sto parlando in generale, non in particolare, perché ci sono bravissime, però è un po' più libertine, sono diventate le madri di famiglia, diciamo il figlio sì, gli va bene, però dice, beh anche io però mi devo togliere problemi di divertimento, mentre prima non esisteva. Ai tempi di quando ero bambino io, la madre era a casa, si occupava della famiglia, di tutto, mai pensare, dicessi, me ne vado a ballare, me ne vado a divertirmi, a prendermi l'aperitivo. Adesso è una cosa normale e lo esigono. Se tu magari gli dici, oh, ma dove stai andando, per dire, io sto sempre parlando in generale, la sera, perché ma io sto andando con le mie amiche, cavolo, prima era impensabile ai tempi di mio padre e di mia madre, una cosa del genere. Sì, ma questo è dovuto anche a questa malattia, perché secondo me è una malattia, di certi programmi che danno, che sono proprio, tolgono qualcosa alla vita di tutti i giorni, tipo il grande fratello VIP, cioè queste forme così di mettere in piazza tutto, di far vedere quanto è stupida la gente, cioè, prima erano delle cose che si teneva a, sì, cioè, i panni sporchi si lavano in casa, giustamente, e questi invece sono proprio delle persone sgradevoli, ecco, per volerli bene. E così tante altre trasmissioni che si infilano nei fatti degli altri, che vogliono indagare, che vogliono vedere, sono poi che ti vogliono inculcare anche la loro opinione, poi magari i fatti sono totalmente diversi. È una forma un po' ambigua, non parliamo poi dei social, che quello è proprio, c'è la gente oramai che non crede più nel paraterno, ma crede in quello che dice Facebook, in quello che dice WhatsApp, in tutte queste belle cose. Sono proprio, sì, è vero, hai detto bene queste cose. Social network è la prima cosa che hanno rovinato le generazioni, cosa, poi farsi miti, cioè tu adesso, per dire, prima, ma ti posso dire, un personaggio importante di cultura diceva una cosa, dici, tu lo conosci, per dire, che cacchio posso dire, il primo nome che mi viene è Rubbia, quello, lo scienziato, quello del genere, ma adesso non sa neanche chi è, però se gli dici, mica è Chiara Ferragni, si ha messo queste scarpe oscene, ah, ma sono belle, se si le ha messe pure lì, lancia una moda, è giovane, vivono di queste cose qua, non hanno più lì dell'interesse, ci ascoltiamo un parere di una persona autorevole, una persona di cultura, niente, non ne frega niente, cioè, molte volte li fanno le interviste, io rimango a bocca aperta, ma dico, ma da per cavolo ne sono usciti, possibile che questi non leggono niente, loro, la loro vita, li fai vedere l'immagine di quel cantante o di quel personaggio che è il più grande ignorante del mondo, però loro lo tengono come riferimento, quanti follower ha preso quello lì, allora quello è una persona in gamba. Poi magari a cosa non c'è neanche su internet, parliamo su questi social network, il più grande scienziato del mondo. Adesso Montagnier, per fare un esempio, l'hai conosciuto per il discorso del Covid, se no nessuno lo conosceva. Dici, Montagnier chi è? Oppure Leonardo da Vinci, chi è? Molti non sanno neanche chi è Leonardo da Vinci, però sanno chi è quel coso, quel rapper che ha fatto il commento su, cosa ti posso dire, su una qualunque cosa politica, perché adesso fanno anche commenti politici. Ho visto Celentano, che io prima l'apprezzavo, ma quando l'ho sentito parlare di politica ho detto, sei morto, Benigni e tutta questa gente qua, devi fare il tuo lavoro, il resto lascialo fare a chi lo deve fare. Infatti il mio caro amico dice sempre che oramai anche le pulci c'hanno la parola. Ho detto bene, adesso poi, non lo so io, se ci svegliamo una mattina te lo mettono a governare, c'è cose che erano impensabili ai tempi di quando ero ragazzo, io non dico di mio padre, perché guai se mio padre, che loro hanno vissuto veramente la guerra, eccetera, eccetera, sanno cosa vuol dire la dittatura e la fame, eccetera. Noi non l'abbiamo mai conosciuta, spero mai di conoscerla. Però questi ragazzi di adesso, tu li vedi, io ho nipoti, miei figli, mia figlia di altro studiando, ma l'altra, la più piccola, c'ha tutte queste idee strane, dico, ma possibile? Cioè vivono di cose che tu dici, ma come fai tu a darti da vivere una cosa del genere? Loro vivono di queste cose così, non pensano al futuro, più che ci sono io l'aiuto, ma cacchio, quando non ci sarò più io, di cosa vivono i nipoti, i cosiddetti miei nipoti, se riusciranno a avere dei figli, non lo so, te lo auguro, di cosa vivono se hanno delle, se non hanno ideali, non hanno aspirazioni? E dei commenti dei loro amici su Facebook e sull'altro, che poi fanno, c'è anche la moda di fare di dire fai questo, guarda quello che fate così, e poi loro in realtà fanno totalmente il contrario, proprio perché c'è una forma anche di vendetta, di queste piccolezze, di invidie veramente scandalosa. Sì, ci sono molti giovani, non tutti fortunatamente, che sono dipendenti da questi social, che più che social forse devo chiamare in social, perché ti rendono anche asociale. Di gente mai vista, c'è stato un periodo in cui molti di questi inducevano anche al suicidio giovane, alla repressione, non parliamo degli atti di bullismo e così via, quindi non lo so, è molto meglio la radio. Sì, sì, è una cosa che stiamo secondo me peggiorando, sarà sempre peggio se non si trova qualche soluzione, però la soluzione non è semplice, perché poi dici che perdi la libertà, diventa la censura, come fanno in Cina o in cosa, ti bloccano queste cose qua, però ci deve essere un po' più di attenzione da tutte le istituzioni, cosa, di cosa sta circolando su internet, cioè oltre alla pedopornografia e tutte queste cose qua, che assolutamente sono da ammazzare chi fa queste cose, però ci sono anche altre cose, emulazioni di fatti, che quello si mette con la macchina a guidare col piede fuori per farsi vedere, e l'altro magari con tutti e due i piedi perché quello l'ha fatto con un piede, cioè cose così, sta diventando cose pericolose, oppure come hai detto tu, istigazioni a suicidio, istigazioni a commettere atti criminali, tante cose che c'è sempre chi ne fa uno più dell'altro, e alla fine succedono i problemi. Guarda, non mi è capitato di vedere, non so se ci sia ancora un filmato messo dalla mamma di un ragazzo, penso che fosse un ragazzo inglese, adesso non ricordo, in cui questo ragazzo inglese voleva far vedere quanto raggiungeva con la moto, e quindi si aveva messo la famosa dash cam sul casco. E si vede questo, prima va una velocità, poi da un'altra, poi fa il Barroso, sempre aumentando, ne esce questa macchina e si vede lui in cielo praticamente, letteralmente volando in alto, poi cadere, e il casco che si distacca, e si vede solo un filo d'erba e basta, boh, il ragazzo è morto. E questo l'ha messo su YouTube una mamma e ha detto, se questa morte in diretta servisse a un solo ragazzo a mettere la testa a posto, a capire che nessuno è mortale, sarebbe già un successo. Ma allora, se tu ti permetti di fare una cosa del genere, di pubblicità, in Italia ti ammazzano tutte queste associazioni di questi imbecilli che ci sono, se lo pubblicizzassero veramente, far vedere questi incidenti di gente fatta spappolata, gente picchiata e fatta male, cioè fargli vedere come la persona, io penso che sarebbe la cura migliore. L'hanno fatto, non mi ricordo in che nazione, una cosa del genere, per questi atti di bullismo, li hanno portati una settimana in carcere, ma in carcere dove ci sono persone criminali, gente pericolosa, naturalmente li hanno avvisati a questi qua, gli hanno detto chi voleva partecipare a questo esperimento, non ci sono state, non so quanto sono diminuiti i casi di bullismo, di atti criminali di giovani, diciamo in età minorile, sono diminuiti in una maniera impressionante. A Milano stavo facendo questo esperimento, si chiama Area 51, questo qua è un ex delinquente, ma di quei delinquenti, quelli pericolosi, che ha fatto più di 20 anni di carcere, non omicidi, però ha fatto dei reati abbastanza importanti. Se tu lo vedi in faccia, te lo guardi tatuato da testa ai piedi, questo ci avrà penso 58-60 anni questo qua, e ha fatto, quando è uscito dal carcere, lui ci ha messo a studiare, ha detto basta, ho sbagliato la vita, devo fare qualcosa di buono, e ha fatto un accordo col comune di Milano, se ti capita certo, l'area 51 Milano, e questo riprende tutti questi ragazzini di 13-14 anni che nel carcere minori, dice, li furti, si comportano peggio che mai, e li gestisce lui all'interno di questa struttura, li sta facendo lavorare, perché tipo una Caritas, una cosa del genere, aiutano le persone che hanno necessità, gli danno una mano in tutto, poi tutte le grosse industrie di pasta, di alimentari, cosa del genere, danno qualcosa da mangiare, e loro li mette qua, dice non c'è stato un caso di rientro nella criminalità, se invece li mette in carcere, questi ragazzi, detto da lui, quell'esperienza sono peggio di prima. Sì, in questi casi la cura migliore secondo me sarebbe innanzitutto cercare a tutti i costi di non lasciare nessuno solo, quindi lasciare nessuno solo significa portare tutte le persone ad avere comunque un lavoro, una forma di sussistenza comunque, cioè di farle capire che lo Stato non ti lascia solo anche nelle difficoltà. È una cosa molto molto difficile, ma una cosa estremamente necessaria, perché se ne vedono troppe, cioè di questi ragazzi che si fanno abbindolare da quello, da quell'altro, e cadono, vanno proprio nella sponda opposta che è quella del male, e fanno tanti danni, oltre a rovinarsi la loro vita. Quindi questi insegnamenti secondo me sono più efficaci, ma ho sentito anche molti docenti, molti medici che quando c'erano tutte quelle contestazioni dicevano un po' come sfida, un po' come monito. Se qualche giovane mi chiede di fare una visita in terapia intensiva dove ci sono i malati, la gente che soffre veramente, probabilmente avrebbero più rispetto dalla loro persona e anche dalla vita degli altri. Tutto lì, perché noi qua in realtà in Sardegna, a parte il problema della società, siamo in un piccolo paradiso, però in zone come Milano, Roma, eccetera, in molte vie non ci puoi entrare se sei anziano perché ti aggrediscono. C'è una parte della stazione centrale, ad esempio di Milano, in cui se ci capiti per sbaglio, guai, ci sono queste bande, vedono che sei anziano, magari che sei un po' malmesso, si avvicinano e ti fanno a pezzi, ma anche se non sei malmesso ti fanno a pezzi, capito? E quindi è su queste cose che bisogna lavorare. Sì, si è detto bene, io seguo molto questo gruppo, sono uno è un campione di MMA, l'altro è un campione di pugilato, e poi c'hanno una tipa che fa loro oltre che il camera, e fanno questo programma, si chiama Scuola di Botte, lo danno su internet, e vanno tutti i quartieri, tre giorni, più malfamati d'Italia. Il posto più pericoloso, ma che tu magari uno dice Napoli, tutti i quartieri spagnoli, Palermo e cosa, la zona più pericolosa d'Italia è la stazione Termini di notte, un'ala della stazione Termini, dice quello che ci dice noi, per dire ci difendiamo e cosa, dice io a mia madre non la farei mai passare in quel pezzo lì, tutta gente egiziana, marocchi, di tutti i generi, di tutti i tipi, vivono dentro la stazione, tutti i negozi a un certo orario chiudono di dentro, un'altra parte della stazione sono aperti 24 ore, lì chiudono perché dice una cosa spaventosa, neanche la polizia c'è, ogni tanto se ne trova qualcuno morto, la coltellata, dice una cosa spaventosa. Così Milano, uno Milano si immagina una città, dice la stazione di Milano, quello che c'è, questi girano tutti i quartieri, e ti posso dire, questi quartieri cosiddetti malfamati, ci sono persone in gamba che cercano di aiutare quelli che possono finire male, infatti ci sono palestre, dei campi per fare dello sport, per allontanare la cosa, e sono tutti ex delinquenti, e tutti vai, quartieri spagnoli, le vele di Napoli, e centro celle, ce ne sono decine, allora ne hanno girati tutti, ma fatti bene, i servizi veramente belli, durano mezz'ora, anche tre quarti d'ora, entrano in questi quartieri, loro camminano lì dentro, trovano la gente del posto e si mettono a parlare, e raccontano le sue, e la maggior parte dei puzzi, assistenti sociali, gente che non ci va neanche, perché dice c'hanno un quartiere pericoloso, e allora si aiutano tra di loro, e vedi delle persone, ex delinquenti, persone veramente che ti fanno paura a vedere, eppure cercano di aiutare queste cose. Purtroppo lo Stato è distante, preferiscono aiutare lo zingaro o aiutare gli extracomunitari che vengono di lì, e non si preoccupano di aiutare queste situazioni pericolose. Perché non è neanche facile poi dare aiuto, non è che dare aiuto spesso è molto molto molto difficile, c'è chi l'accetta, poi c'è chi non l'accetta, insomma sono problemi molto molto complicati e occorrono persone di un certo livello per poterli affrontare in maniera anche risolutiva. Una cosa è certa, che i violenti, chiamiamoli violenti, chiamiamoli cattivi, sono una minoranza, ma dato che loro hanno questo status anche nei quartieri malfamati, sono, capito, si fanno largo in malo modo rispetto alle persone oneste, che indubbiamente in qualsiasi posto ci sono, ecco, anche nei posti apparentemente più malfamati. Purtroppo è così. È difficile anche metterci rimedio, d'altronde non si può chiedere sempre allo Stato di fare tutto, è anche la gente che deve capire che bisogna cambiare un po' la mentalità, essere positivi ed essere, avere un po' più di fiducia anche negli altri. Assolutamente d'accordo, però io dico una cosa, se tu assistente sociale non sai esattamente come funziona la logica di quei quartieri lì, che ci sono questi ragazzi che sono smandati, stanno tutto il giorno in strada perché il padre e la madre, una è tossicodipendente, il padre è in galera, sono buttati lì in strada, di cosa vivono questi ragazzi? Se tu li inserisci, li fai fare qualcosa, però ci devi capire la situazione, come questo tipo che ti ho detto io, questo che vive in questa zona di Milano assolutamente pericolosa. Ha ripreso questi ragazzi, ma tu se li vedi raccontare certe scene, ragazzi di 13-14 anni, non è possibile, quello che hanno rubato, hanno sparato, ma ragazzini che rubavano le macchie, così, e raccontava perché dice, noi siamo, non avevo nessuno a casa, non ho mai ricevuto un regalo, mia mamma, mio padre io non l'ho mai visto perché è stato, da quando sono nato è sempre stato, cioè queste situazioni qua, poi prendono un laureato, appena uscito dal corso, gli ho messo a fare tirocinio nel quartiere più malfamato. Se invece lo dai, per dire, queste persone che sono state anni in carcere, come ha fatto questo qua, che ha studiato, ha capito che ha sbagliato, sconosce le situazioni, quelli che aiutano. Io ti faccio un esempio veloce. Mio padre era il fondatore di una squadra, non facciamo il nome, non si dice. Ci confrontavano altre volte con altre squadre di altri paesi, di altre situazioni, anche squadre abbastanza importanti, e capitava di giocare sempre con questa squadra, tutti amici, però dice c'erano questi tifosi, ogni volta ne combinavano una peggio dell'altra. Alla fine anche hanno chiesto consiglio a mio padre, e gli ha detto noi non possiamo stare ogni giorno a prendere multe, ogni partita per colpa di questi scalmanati. E mio padre gli ha fatto, ma chi è il capobanda di tutti questi qui? È questo qui, allora tu chiamatelo, fallo dirigente. L'ha fatto diventare dirigente della società, e cioè tu sei dirigente, gli ha dato un titolo, che per lui era un titolo che non vale niente, da oggi sei tu il responsabile, gli ha detto queste cose qua, fai in modo che non succeda più niente. Dal giorno non è più successo niente, per fare un esempio. Vabbè, anche quello può essere un metodo, ma non è anche molto pericoloso, perché potrebbe poi esaltare ancora di più i violenti, perché ho visto che sono violento, sono arrivato come i camorristi in pratica. Io sono violento, ho ammazzato quello, ho picchiato l'altro e la gente mi rispetta, sono un gran signore. Questo però non è così, sarebbe un messaggio, se vogliamo, molto pericoloso. Chi ha sbagliato deve pagare, deve rendersi conto che c'è una legge a cui bisogna comunque rispondere, e quindi deve per forza fare delle scelte. Proprio il fatto di essere maturi, di essere consapevoli, a un certo punto richiede anche di prendere le decisioni, ho detto che ti piacciono per forza, possono essere anche delle brutte decisioni che devi prendere, però a volte sono necessarie, ed è lì che si vede l'uomo, quello è il vero uomo, non è quello con i muscoli, quello ben piazzato eccetera, è colui che sa prendere la decisione più giusta in circostanze non sempre belle. Sì, ma se tu queste persone, questi delinquenti, sono gente che non sono mai andate a scuola, la maggior parte, diciamo, li chiamiamo ignoranti non per colpa loro, non hanno nessuna cosa delle regole, tu quando non te volte vanno in carcere, questi qua, molti, non tutti, si rimettono in cosa, dice, fanno una scelta per dire, cavolo, io ho mia figlia, ho mia moglie, cosa, quelli che mi aspettano, cosa devo riniziare di nuovo a fare delinquente? Arrivano a un certo punto molti che dicono, cacchio, mi metto a studiare. Infatti questi qua, se li senti parlare, molte volte dici, cavolo, questi sono i professori, proprio discorsi filosofici di come comportarsi nella vita, dici, ho sbagliato, sono stato un imbecille, ho fatto quello, vengono riformati, e quando escono fuori molte volte dice, non sanno più cosa fare. Se tu invece gli dai la possibilità, anche con queste cose che ti ho detto io prima, qualcosa forse riesci a migliorare, visto che lo Stato molte volte, tu dici, non possono pagare per non fare a queste persone qua, però allora cosa le fai? Certo, se hai fatto dei molti meno importante, un altro discorso, ma molti l'hanno fatto anche, non dico per necessità, perché erano abbandonati a se stessi, non avevano supporto di niente e purtroppo succedono. Ma te ne racconto tanto. Io ho due miei cugini, un cugino e una cugina, che lavorano su questo discorso qua, l'aiuto ai tessuti dipendenti, malati terminali, di AIDS e cose del genere, gestiscono insieme ad altre persone una struttura molto molto grossa che non si fa il nome, eppure molti di questi che anche ci sono capitati anche, non dico solo malati AIDS e terminali, ma persone per dire dei tossici e cose del genere che vanno in queste comunità, e qualcuno rimane, dice il mio compito, dice se vado fuori cosa faccio? Rischio di stare di nuovo come prima, a quel punto do una mano qua, per cui ci sono tante cose che se riesci a gestirle, fate fare a delle persone capaci, molte cose si riescono a risolvere. Sì, sta riaprendo la propagazione. Purtroppo, proprio così, c'è poco da fare. Beh, non dimentichiamoci che ci sono anche molti, molti bravi preti totalmente sconosciuti che già da anni fanno quest'opera che è veramente meritevole, molti ragazzi riescono a recuperarli, tanti altri no. Molti hanno pagato con la vita, Varasi Don Puglisi, il tentativo di togliere tanti giovani alla mafia, alla camorra e così via. Anche loro bisogna ricordarli perché sono degli eroi. Purtroppo sono battaglie che si possono vincere, altre che non si vincono, però l'importante è quello sempre di impegnarsi, ecco. Sì, sì, hai detto bene, naturalmente poi ci sono i matri, come quello che hai nominato tu. Aspetta, facciamo 2 secondi di bianco, avanti chi vuole entrare su 10, avanti al tempo la Gianfranco. Vabbè, stanno ascoltando, noi lo sappiamo che stanno ascoltando, non siamo oramai dei pivelli di primo pelo. Ce la metto oggi? Sì, questo è uno di quelli che ha le orecchie di porco, come diceva un carissimo amico. No, ma qua facciamo cosa, la radio è sempre accesa, stiamo preparando, vabbè. A che ora è la partita? Alle 9, sono tutti e due, c'è la Atalanta Manchester, Juventus, mi sembra Zenit, San Pietroburgo, una cosa del genere. No, c'ho la cena Franco, binario c'è con la moglie, la discollega di mia moglie, siamo molto molto amici, non c'entra niente la radio. Va bene, sto aspettando, ma alle 8:30 che erano qua, quindi altri 10 minuti esce che rientra. Alle 8:30 o alle 9 la partita? Alle 9, ma Franco vedi con te? No, non è arrivato ancora. No, porta lui la scheda, ce la guardiamo. C'ho il porta scheda intanto, il chip. Mettiamo il chip e ce la guardiamo, e lui c'ha l'abbonamento di Dazon e Sky. No, Dazon non la dà la partita, Sky sì che la danno, la Champions League. Sky c'ha solo 3 partite del campionato di Serie A e basta, e non tutte, ti può capitare Fiorentina Nocerino, per dire, o Juventus Milan, dipende da cosa c'è in quell'orario lì, mentre Dazon ce li ha tutta la Serie A, però non ha la Champions League, te la puoi guardare solo su Sky o su Infinity o su Amazon Prime, però Amazon Prime ti dà la miglior partita del mercoledì, per dire, oggi cosa c'è, la più bella c'è Atalanta Manchester, ti dà quella, la Juve Mari non ce l'ha. Sì, volevo sapere la Juve guardare il Manchester contro l'Atalanta, perché deve essere un partitone, deve essere. E vabbè, ci guardiamo quello che infatti ho telefonato, questa porta la scheda, l'avevo già portata l'altra volta, mi ero dimenticato. Salutalo e dirgli a farci sentire più spesso a Franco. Oh Claudio, non vorrei allarmarti, può darsi che sia io mezzo GBU, premesso. Mi sembra che il tuo segnale sia molto più basso rispetto a prima. Non so, io qua credo che tutto rock. Non che non si sia abbassata la potenza della radio, ma non penso, perché questa radio oggi è piccolina, se poi le lasci quando stai parlando salgono sempre i watt, quando si lascia un po' in stand-by si raffredda e quindi si abbassa la potenza, non so, vedi un po' Roberto, sempre uguale. Ma questo che cos'è? Quello di prima? Sì, questo è sempre il 757. Diciamo con l'altra arrivi più forte, qua quei picchi arriva 9:30. Beh, l'altra 4:30 e 4:30, no, non si scherza. Dov'è? Ho già fatto, va bene, non ho toccato niente. Sì, io ti sento benissimo, anche troppo, perché sento tua moglie che parla nel sottofondo, quindi non è un problema di radio, è un problema proprio di, come segnale io alludevo, che mi è sembrato, ripeto, potrei anche sbagliare, mi è sembrato un po' più debole di prima, tutto lì, come radio mi sembra abbastanza forte. Non guarda quello che ci dà i risultati, sì, stiamo parlando tra madre e figlia. Il segnale è sempre uguale, quindi sempre quasi 9.30. Sì, sì, sì, più o meno, diciamo, ripeto, con l'altra radio tiri un po' di più, si supera i 9.30. Qua con i picchi da 9.25 sali a 9.30. Il segnale di Gianfranco, forse un pelosino più forte Gianfranco. Gianfranco addirittura più forte. Un pelo, ma stiamo parlando di cose impercettibili. Se vi annullate, sicuramente se parlate vi annullate uno con l'altro, siete simili come segnale. Sì, vabbè, questo sta andando. Va bene, va bene. Quindi mi hai detto alle 8 mesi o alle 9 la partita? Alle 9. Ah, alle 9. E allora già va bene. Aspetta che commuto la radio, perché voglio togliermela il coso. Faccio col 4.30, vediamo. Da, su Amazon Prime c'è Zenit Juventus, ore 21, terza giornata di gironi. Credo, KK, allora questo è il 4.30, com'è Roberto? Differenza c'è? No, ti ripeto, sono uguali. Per me è più forte. Come radio dovrebbe essere più forte sicuramente, come segnale magari è uguale perché la potenza è uguale. Allora, la radio non c'è paragone, nel segnale siamo lì, forse un peluzzino più forte è questo. Sicuramente leggermente più forte, beh, va bene. K di Roggero, ok, comunque tutto, vediamo l'assorbimento, e io fa appena questo c'è 30 watt di portante con la lagna a 20, ma non è che cambi niente, già va bene. Io sono con 3 watt, credo 4, provo a aumentare io a vedere se ti aumenta, ma vabbè guarda, sì, ho aumentato per modo di dire, oltre non va, guarda adesso se è cambiato qualche cosa. Superi un pochino il 9.3, ma proprio una punta col B. Infatti è poca roba, io rimasto sempre per non farlo scaldare, infatti adesso non lo rimetto come era prima, però voglio fare anche un altro esperimento, vediamo cosa succede, se funziona, ecco, guarda adesso se è cambiato qualcosa, magari rovina la radio un po', diventa più satura. Sì, sì, esatto, se è quasi 9.40 è cambiato, ma le nostre antenne probabilmente si vedono già, perché io ce le ho, Monte Oro, le antenne nella Rai di Mediaset, io le vedo proprio a Salvatore, le vedo, ce le ho di fronte. Tu guarda Monte Oro e poi guarda verso, dalla tua posizione verso sinistra calcola un chilometro e mezzo e vedi un po' quella più o meno la mia posizione. Sì, sicuramente noi siamo in linea ottica, ci vediamo perfettamente, io sono tutto, ti dico, mi metto interrato, vedo le antenne perfettamente della RAI, è perfetto, proprio le vedo a occhio nudo, non c'è nessun ostacolo, io sono completamente aperto. Mario, per il suo Claudio, io ho quei palazzoni in alto che hanno fatto su sopra Serra Secca, di lì un po' mi chiudono, però siamo talmente vicini che il segnale arriva fortissimo da me e da lui. Infatti, ma Claudio comunque arriva sempre bene. Ma io a Claudio da quando lo conosco non ho mai visto uscire meno di 9.30, 9.25, ma meno di così mai. Ci avevo il 60 pieno perché anche tu nel 9.50 avevi 60 perché eravamo troppo attaccati adesso qua, considera che io sono a circa 5 km da te, 4 km. Capito? Quindi insomma, però la posizione già è buona, non c'è problema, se va bene lo stesso. Assolutamente, certo, ci mancherebbe. L'altro giorno io ero con Gianfranco per dire quanto siamo aperti, c'avevo l'antenna staccata, arrivavo a Santiago 6 metri, ti sento basso, ti ho detto basso, come mai? Ho girato e c'avevo il commutatore sull'altro apparecchio. Vabbè, capito, siete rincoglioniti tutti e due, quindi io infatti mi allontano molto da voi perché altrimenti divento rincoglionito come voi. No, io ho fatto tutte le prove da qua e diciamo che sono soddisfattissimo per la posizione in cui mi trovo, tu lo sai, sei forse persona, quell'altro carissimo amico che domani lo chiamo perché è morto il padre, abbiamo fatto tutto anche a lui, quella persona che è venuta qua assieme a te quando ancora non abitavo e c'erano i muratori, e abbiamo fatto le misurazioni. E pensavo di fare buca, invece è talmente alta la zona che nonostante rimango sotto la vallata mi apre bene, perché Alghero arrivo 9, tranquillo, Porto Torres arrivo benissimo, non parliamo vabbè da Claudio Di Muro, che mi arriva a fondo scala lui, perché ce l'ho proprio di fronte, ma ho visto anche Patata, Budusò, Thierry, mi arrivano tutti benissimo, quindi no, non mi posso lamentare poi. Per l'uso che ne faccio adesso della radio non è più come prima, roba, prima ero assillo tutti i santi giorni, adesso ogni tanto entro due chiacchiere, ma giusto perché ho questo tipo di radio e quindi vanno usate, accese, eccetera. Se avessi avuto solo il Galaxy sarei entrato una volta al mese giusto per salutarvi, capite? Perché proprio non mi ha fatto nulla, adesso sto facendo dei lavori tra l'altro, quindi sono anche un po' impegnato. Sì, sto cercando la radio, hai preso un coso, radiopatia, così. Beh, già fra. Ma infatti, è tutto, è sempre dal fatto che ci sono state delle persone che forse farsi affari sui hanno rotto le scatole, tutto lì, perché se no nel complesso noi siamo abbastanza tranquilli, ci facciamo un'altra chiacchierata, chi c'è poi spegniamo, ma è anche difficile che andiamo a incrociare con le portanti, ecco, e con quelle altre cose. L'importante è avere il rispetto di tutti e state tranquilli alla radio, vedi, ogni giorno c'è una chiacchierata, passi l'oretta così, va bene, ecco, non ci sono problemi. Gianfra, ne abbiamo già parlato, intanto rispetti o non rispetti, ti mettono sempre in mezzo, sei sempre nella bocca di tutti, o per gelosia o perché, capito, c'è sempre qualche attrito, qualcosa che magari hai detto non è andata bene, sei sempre in mezzo, quindi io ti rispetto la decisione che ho preso, ne avevamo già parlato sia con te che con Roberto, anche con qualcun altro. Una volta che io andavo via dalla città, una mezza radio mi passa il secondo ordine, è che è una cosa che mi appassiona, mi è sempre piaciuta, mi piace, e avevo deciso di non montare niente, però non avendola mi sono accorto che mi mancava qualcosa, quindi ho detto io ripiazzo tutto e la uso come dico io, e così sto facendo. Quando mi va di fare due chiacchiere, di entrare e salutare qualcuno che mi è rimasto sempre nel cuore, entro, altrimenti rimango in ascolto, perché ancora qualche infame è rimasto e non ti preoccupare. Vai, vabbè, dai, poi un altro passaggio, poi vi saluto, che tu fa così devo essere pesce. Anche io adesso saluto, dai, che sta languorando lo stomaco, come si dice, sta iniziando a salire la fame. Ciao Gianfranco, ciao Claudio, io faccio corretti, grazie per questo, tutti e due, e adesso vado a mangiarmi qualcosa, poi mi guardo un pezzo di partita, saluto anche gli eventuali amici sul canale 10, ciao ciao, vai tu Claudio per i saluti e poi Gianfranco. Ciao Ro, noi ci vediamo, glielo sai, se non tutti i giorni, ma un giorno sì, un giorno già ci vediamo, passo il mic per Gianfranco, poi ascolto il finale, chiudo anch'io definitivamente. Così ci andiamo a cenare. Ciao Rubio, un abbraccio, vai Gianfra. Sì, ciao, allora Roberto, alle prossime, buona serata. Noi dobbiamo ancora fare quegli esperimenti là che ti dicevo, ce ne dimentichiamo sempre, chissà che non ci riusciamo. Ciao Claudio, comunque non siamo proprio rimbambiti del tutto, dai, diciamo che siamo rimbambiti al 99.9%, tu sei già al 100%, non te ne sei accorto, va bene, dai, però ci sentiamo ogni tanto, su, non è anche perché dare soddisfazione a questi personaggi dovrebbe essere l'ultima cosa che fai, poi se non piace ne abbiamo tante di possibilità. Buona serata, buona cena, io tra l'altro mi sono dimenticato anche che dopo cena sono 8:30, andiamo bene, ciao a tutti, ciao anche a chi sta, a tutti quelli che sto vedendo, che stanno ascoltando tra l'altro, sono molti oggi, ciao a tutti. Ciao, ciao Gianfra, e tanto le parole ce le abbiamo già dette noi, no? Quindi no, io sono tipo tre parti, no, non ho problemi, ce ne voi, no, ascolto tantissimo, però no, non mi fa più come prima, dai, non c'è problema. Ciao Gianfra, un abbraccio anche a te, alle prossime, saluto quelli che sono in ascolto, ciao ciao, buona cena a tutti. Ciao, ciao, alle prossime. Ciao, ciao, per il re, ciao, ciao. Ciao, ciao, a casa sei tornato? Non si intendi. Più che si intende ci vedi. Ci vedi, ci vedi. La segnale manca dalla radio, va. Io non ho giù urinari. Sì, vabbè, io non sei molto distante da me, allora. Comunque vi benissimo. 9.10 abbondante qua. Modulato 9.15, radio super 5 come sempre. Dai, sto scrivendo che c'è gente a cena, Lugarie. Già ci aggiorniamo, ok? E poi ci guardiamo questa Atalanta, Manchester, io penso che non me ne affrutti nulla. Vai tranquillo, vediamo un po' se c'è Bombolino. Antonio Bombolino, ci sì, oh, ci sì. Bombolino!